non puoi fermarmi, oh oh. E sono sempre meglio, oh. Sono passata dal voto 4 al voto 8. Tu con un 6 speri di fare il botto. Io non ci spero, ci credo, te manco ti vedo, te manco ti vedo. Sei già troppo indietro, troppo indietro, troppo indietro, troppo indietro. Sei là dietro un vetro, dietro un vetro, un vetro oscurato dal tuo super ego. Prova pure a fare meglio di me se lo vuoi. Piede. Sì, sì. Le cazzate han preso piede. Se salgo su di un palco è solo per accompagnare chi ci crede. Alza quel culo, vieni qui sotto, esprimiti, io sono Ness. Le mani al cielo, per Lady Di, i tuoi commenti, i tuoi giudizi non fanno una minaccia, quelle ci pensiamo noi con queste rime dritte in faccia. Io sono solo da contorno, a te basta una donna. Personalità e carattere al di sopra di una spanna. Se mi presento io non serve neanche che apri bocca, per me parla la mia schiena dedicata a doppia H. Di te sappiamo che ti nascondi tra le tante persone inconcludenti, dietro un vetro fa il gigante. Oggi di sicuro siamo noi supereroi. Esprimi un desiderio, forza di cazzo, che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?